Ok, nel frattempo abbiamo recuperato un collegamento molto importante per una serie di motivi, a parte chi c'è dall'altra parte del telefono. Buonasera, Gabbat. Buonasera a tutti, eccoci qui. Allora, benvenuto intanto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E perché di questo collegamento? Stiamo cercando, insomma, di presentare, di raccontare una storia che, se vuoi, nasce un po' dalla, sempre intorno al punk hardcore, no? Sicuramente sì, in parte sì, in parte no, nel senso che abbiamo dato il via a questo progetto escursionistico che è nato un po' veramente all'interno di quella che è la scena punk hardcore romana, e che è stato un po' poi sospeso per anni, non era mai partito. Ultimamente ci siamo dati un po' una smossa a livello organizzativo e insomma si è concretizzato e coinvolge quella che è un po' la realtà romana, i centri sociali, e portandola e trasportandola sulle cime delle montagne. Benissimo, allora appunto, no, perché? Cioè, perché fare una cosa del genere? Allora, l'idea era nata, insomma, parecchi anni fa. Dimmi, Dario. No, perché, diciamo che, insomma, cercare di far avviare un progetto di questo genere tra punk e skins non sempre è facile, perché insomma il venerdì sera si esce, il sabato sera si fa tardi, iniziative, concerti e quant'altro, insomma è difficile svegliarsi presto la mattina, però a maggior ragione c'è una determinazione forte appunto nell'andare per montagne, e vogliamo cercare di raccontare a chi ci ascolta perché appunto. Sì, il progetto, ecco, appunto, è nato parecchi anni fa, però la difficoltà è stata quella un po' di aggregare persone attorno a un progetto. Sicuramente prima di noi a livello organizzativo c'è stato quello che è il gruppo escursionistico dell'Oblita, che sono i ragazzi della Duscia, che per primi i pionieri hanno pensato di dare, sì, i pionieri, nel senso che hanno aperto la strada a quella che poteva essere un'alternativa alla domenica che si dorme fino alle 2, perché siamo tornati dal concerto ubriachi alle 6 di mattina, e c'è stata sicuramente data una scossa quantomeno primaria da questo punto di vista. I ragazzi hanno fatto tanta aggregazione attorno a questo progetto che ci ha coinvolto anche a noi ragazzi della provincia sud, quindi parliamo del sud di Roma, che ogni volta ci imbarcavamo con loro e andavamo a fare queste escursioni tutte quante basate nella Duscia, e molto interessanti sia dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico e appunto da quello escursionistico di per sé. Qual è stato l'ingrediente aggiunto nostro? Al netto che tutti quanti noi facevamo escursionismo, a prescindere poi da queste due, diciamo, entità, che è Oblita e che è Europangea, che è il nostro gruppo escursionistico che sta muovendo adesso i primi passi reali, insomma, qui nel Lazio. E abbiamo aggiunto quello dell'obiettivo della vetta, che per noi è molto importante, perché insomma forse è l'obiettivo più egualitario tra i vari che ci possono essere in montagna, perché ci mette di fronte a una difficoltà per tutti uguale, che è quella di avere l'obiettivo di andare in cima alla montagna. Quindi forse questo ha spinto altre persone, come a noi ci ha spinto all'inizio ad andare dai ragazzi di Oblita, adesso ha spinto loro a venire verso di noi, e tutte altre realtà che gravitano intorno a quella che è la scena che viviamo tutti i giorni si sono unite, così divertendosi a noi in questo giochetto della domenica, che poi in realtà sta prendendo una forma sempre più impegnativa, abbiamo più scadenze, più progettualità, e ci sono anche più persone. Quindi l'aggregazione che può fare un concerto in un centro sociale a Roma, per assurdo, grazie a queste due realtà, al momento, se possiamo dire così, c'è anche attorno a questa nuova idea di fare aggregazione in montagna, che è un po' lo stesso concetto del concerto, però trasferito da altri punti, anche quello, insomma, atletico, fisico, un po' di recupero non fa male a nessuno. No, anche perché, insomma, i concerti, le iniziative sono un qualcosa di fortemente aggregativo, però magari i volumi sono alti, si fa tardi, c'è un altro tipo di socialità che magari non sempre facilita la comunicazione, no? Sì, esatto, poi in montagna si recupera quello che è uno degli aspetti che magari manca a un concerto, che è quello della contemplazione. Per quanto possiamo essere magari un gruppo numeroso, poi ognuno si vive l'escursione nella sua maniera e recupera quello che poi veramente manca in quella che è un'entità urbana e suburbana della capitale, della provincia o quello che sia. Insomma, manca proprio una parte di vita che ci è stata rubata per forza di cose, insomma, dall'epoca che viviamo, e quindi si tenta, insomma, così di recuperare quella che è una parte che a un certo punto ci si sente proprio un cappio alla gola e manca, e forse questa spinta verso il ritorno a riscoprire, insomma, una parte di natura che ovviamente per varie motivazioni che più che meno non può vivere, cerchiamo questa scappatoia, diciamo così, certo, sembra che stia funzionando. Insomma, il tentativo di abbandonare lo stress e lo schifo della vita di pianura che facciamo tutti i giorni, appunto ci si concede quando si può una fuga verso la vetta, no? Esatto, che poi, ecco, appunto, c'è questo obiettivo della vetta che ci spinge e ci entusiasma sicuramente, è divertente, però ci mette, come ho detto già prima, veramente alla prova, perché poi viviamo anche in un mondo, insomma, dove la tecnologia è un po' diventata protagonista assoluta di ogni nostra azione, di ogni nostro rapporto sociale, quindi fare socialità in un posto dove questo viene completamente a mancare comunque crea un minimo di rottura, qualcosa, e questo aspetto sicuramente è tra i fondamentali dell'escursionismo in generale e di questo nostro progetto che è stato avviato al momento con successo, speriamo duri il più possibile, anzi che uno degli obiettivi per l'anno prossimo sarà allargare anche un po' il raggio di azione, perché è vero che la difficoltà è far svegliare la gente la domenica mattina, vediamo poi quando la gente dovrà fare trasferte un po' più lunghe, magari di 2 giorni, in quanti ci seguiranno in queste nostre escursioni e uscite varie. Allora, tu non lo sai, però lo dico adesso, do questa anticipazione per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Stiamo organizzando qui appunto a Radio Onda Rossa un'escursione a celebrazione dei nostri 40 anni, quindi per appunto celebrare la vetta che è raggiungere appunto 40 anni di vita, lo faremo appunto con un'escursione raggiungendo una vetta, sarà un'escursione aperta a tutti e tutti, stiamo studiando diverse destinazioni, così magari ne faremo credo più di una magari un po' più soft, un'altra un po' più impegnativa, però appunto crediamo anche noi come redazione appunto il fatto che l'escursione in montagna sia una qualcosa di fortemente aggregante, si sviluppa un tipo di socializzazione fortemente costruttivo, no? Anche perché poi chi ha fatto un'escursione, chi ha avuto qualche esperienza, vede che poi si abbattono anche le differenze di genere, no? Cioè non c'è superiorità fisica. Assolutamente no, anzi bisogna anche essere attenti a aiutarsi uno con l'altro, perché poi le situazioni mutano e in montagna in generale la situazione meteorologica e fisica può mutare in continuazione, quindi direi che assolutamente da questo punto di vista ci siamo. Bene, bene, allora, non abbiamo detto il nome dell'associazione. Sì, allora, Europangea, questo nome deriva dalla nostra, diciamo, teoricissima volontà di essere un gruppo escursionista che non ha il suo raggio di azione nel Lazio, bensì sull'intero aspetto continentale. Questa è un po' l'idea di base. Chiaramente è più un sogno questo che, certo, che una solida realtà, però ci piace immaginarla così, alla fine insomma ci serve sempre un ideale dietro una pezza che mettiamo su una montagna, quindi questo è un po' il nostro leitmotiv che continuiamo a propagandare, quindi Europangea, gruppo escursionistico, è l'associazione che al momento sta organizzando questa serie di uscite qui nelle principali vette per ora del Lazio, diciamo al confine con Abruzzo, e poi per l'anno prossimo vediamo di allargare ad altre regioni la raggio di azione a mano. Quindi associazione di natura non professionistica, lo diciamo, no? Assolutamente no, come ogni forma di associazione che ho fatto io personalmente nella mia vita, dal rugby alla musica all'escursionismo e qualsiasi altra cosa, sempre insomma dire veramente dal basso, questa è la parola che mi viene in automatico da dire. Ma cioè, anche senza poi andare a ricercare attrezzatura di altissimo costo, insomma, se poi, magari se vogliamo dare qualche contatto, chi su chi magari si sente interessato a voler scoprire questo tipo di attività? Sì, nel senso che noi fondamentalmente quello che ci raccomandiamo, tutte le istituzioni, quando creiamo eventi eccetera eccetera, già valutiamo prima quale può essere il grado di difficoltà, quindi se quale sia l'attrezzatura più idonea. Di per sé, quindi, non essendo noi un'associazione di tipo professionistico, non è che c'è qualche regola particolare, insomma, ognuno poi è libero di attrezzarsi come vuole. È chiaro che, insomma, visti i mesi in arrivo, ci si debba attrezzare un po' meglio, c'è la neve, le istruzioni, quelle aperte, pubbliche, chiaramente sono di difficoltà leggermente minore, qua a titolo personale ognuno può fare e disfare come vuole. Poi per attrezzarsi, insomma, c'è la nostra pagina su Facebook, ci potete trovare, e in caso, insomma, se serve qualche consiglio rispondiamo direttamente da lì. E in generale, insomma, si sa che per il low cost dove andare sono sempre i soliti 2-3 posti all'incirca. Certo, va bene. Allora, prossima uscita chissà. Prossima uscita chissà, perché a quanto pare il meteo è clemente questi giorni, ha nevicato ieri e oggi qualcosina, ma a quanto pare si potrebbe uscire sul Monte Meta, che è vicino Picinetto, quindi a sud del Lazio, e sempre al confine tra Abruzzo, Molise e Lazio, quindi il Parco Nazionale. Speriamo che, insomma, si possa confermare questa uscita, che comunque, insomma, tra massimo domani confermeremo. E si andrà in vetta a 2242 metri, quindi questa al momento sarebbe anche la vetta più alta che ufficialmente con Aeropangea. Attenzione, attenzione. Eh sì, è il nostro nuovo record. Poi a mano, quando il tempo ce lo permetterà, vediamo di innalzare ancora la quota. Chiaramente l'obiettivo per il 2017 è il Gran Sasso, diciamolo sicuramente. Ambito, ferrate varie e questioni legate più, insomma, a un'attrezzatura più complicata vengono nel caso comunque ben illustrate sui vari eventi, quindi chi partecipa già sa cosa va incontro e, ecco, può regolarsi in base all'attrezzatura che possiede o meno e decidere di venire o meno con noi. Vabbè, io rinnoverei l'invito, insomma, a mettersi in contatto con Aeropangea, anche solo per avere informazioni o per consigli, chi ne sa più di noi. No, vabbè, dico noi perché sono un vabbè, non lo dico chi sono all'interno di Aeropangea. Confessa. No, non vorrei peccare di autoreferenzialità. No, vabbè, sono un appassionato di Aeropangea e si sta bene. No, Esatto, e poi comunque noi consigliamo anche di seguire, perché poi magari la radio la sente un po' chiunque. Noi siamo più localizzati a sud di Roma, per quelli che stanno localizzati più a nord c'è, cioè, Oblida, che fa tutte escursioni nel Viterbese e dintorni. Quindi entrambi i gruppi potete contattare direttamente la pagina e qualsiasi tipo di informazione possiamo rispondere, anche scambio di informazioni sui itinerari consigliati o meno in base alle nostre esperienze, possiamo aiutarvi tutto qui. Sì, magari nelle prossime puntate di Do It Yourself Invasion vedremo di andare a contattare anche i ragazzi e le ragazze dell'Oplita, c'è un po' di competizione tra... Ma la rivalità in realtà in questo caso, a parte che è molto goliardica, non fa altro che spingerci a fare nuove escursioni, più escursioni possibili, quindi direi che come l'aggregazione ha un suo valore costruttivo anche questa finta rivalità fra di noi, che siamo tutti amici fondamentalmente, però è ovvio che noi dobbiamo sempre sottolineare questa questione della vetta. Loro ci rispondono sempre, noi le montagne non ce le abbiamo, quindi anzi li ringraziamo che sono venuti all'ultima escursione sul Monte Terminillo, che è stata molto bella, sì. Ci hanno supportato come sempre. No, hanno partecipato anche i Torpedos, insomma, un po' sono attività che vanno appunto ad aggregare poi le diverse individualità in giro per Roma. È una cosa che fa piacere, no? Una cosa fa piacere. Poi se con l'andare del tempo riusciremo a creare una sorta di coordinamento vero e proprio, e posso dare un'anticipazione, nel senso che dato che Oplita è intervenuta parecchio rispetto a Brigate di Solidarietà Attiva, che sono intervenute nella zona del terremoto di Amatrice, l'anno prossimo il Monte Corzano, che è praticamente in zona, è lì, vorremmo affrontare questa escursione coinvolgendo chiaramente i locali per cercare di, insomma, di far passare anche a loro una giornata così in montagna. E Europangeo Vita insieme organizzeranno questo evento con DSA, non sappiamo che chiaramente la data, però quella sarà sicuramente una delle principali questioni che vorremmo portare a termine l'anno prossimo insieme con Vita e con tutti quelli che ci stanno supportando. Quindi ripeto, non solo noi due gruppi escursionistici, ma varie realtà romane, come abbiamo detto i Torpedos e tutti quelli che si presentano anche singolarmente alle escursioni. Benissimo. Allora, caro Gabbat, io ti ringrazio. Non so se ci vuoi lasciare con la scelta di un brano. Sì, non so quale sia il vostro carnet, anche perché io sceglierei sicuramente un brano black metal che non è molto radiofonico, quindi cioè direi subito un qualcosa degli Immortal, che sono il gruppo un po' più per la natura in generale, insomma, sono molto poco satanici e molto dediti all'ammirazione dei boss. Ok. Però non so se puoi consigliarmi tu qualcosa, altrimenti forse dovrei pensare a scrivere un pezzo con il Laccaggio se Europangeo sul prossimo disco, almeno veniva più naturale. Vabbè, la parte black metal ce l'avete sempre avuta, no? Sì, la parte black metal è insita in noi, perché comunque noi, come abbiamo spiegato più e più volte, veniamo prima dal metal e poi ci siamo intrufolati nel punk. Molti fanno il percorso contrario. Però ecco, noi purtroppo di che, meno male, siamo cresciuti con quest'anima metal molto forte, e quindi a livello di escursioni per noi è un po' un ritorno di gioventù, cioè tutto connesso, cioè per noi il black metal è la montagna, è la riscoperta del bosco, rispetto della natura. Il monte metal per me personalmente potrebbe essere veramente una delle escursioni più interessanti. Ci sono camosci di libertà, quelle reali, posso che si facciano vedere, e quindi ci sono i dubbi, quindi assolutamente, ecco, ci vorrebbe Waltz dei Marduk forse, ma io ripeto, non so se tu vuoi aiutarmi. Guarda, io ci avevo pronto, cioè avevo scelto appunto degli Immortal, Mountains of Might. Esatto, sì, era una richiesta chiarissima sin dal pomeriggio sulla mia sì, abbiamo colto Mountains of Might è veramente la canzone più adatta in questo momento, assolutamente. Va bene, allora caro Gabbat, ci vediamo presto per la vetta Monte Meta, ci proviamo, no? Ci proviamo sicuramente al Monte Meta, salvo che suona un po' come il raggiungere il Monte Fato, capito? Arriva a Monte Meta. Vabbè. Beh sì, 26 dicembre andare sopra i 2002 non è cosa da poco, quindi forse è l'ultima volta che possiamo andarci senza un'attrezzatura professionale. Alle prossime volte cerchiamo di organizzarci tutti quanti meglio. Potrebbe pure essere l'ultima volta che va Do It Yourself Invasion, chi lo sa. Va bene, sì, insomma. Okay. Bene, buon proseguimento allora e grazie. Grazie a te Gabbat, dai. Seguite Europangea, seguiteci in vetta però, non sulla pagina. Ok, dai, un abbraccio. Un abbraccio, ciao a tutti, grazie mille.